Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, buona domenica a tutti. Ci eravamo lasciati indietro dalla volta scorsa, se non mi sbaglio, la sindrome di Erodoto, ma la accompagneremo per questa occasione con qualche dissertazione sulla scuola liberale, sulle lettiere eufemistiche e in un finale a mozzafiato che non mancherà di lasciarvi con buonanotte. Esterrefatti. No, ricominciamo perché. Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ce l'avamo lasciati indietro dalla volta scorsa, se non mi sbaglio, la sindrome di Erodoto e questa volta vi aggiungeremo qualche riflessione sulla scuola liberale, sulle lettiere eufemistiche e in conclusione, per dare alla nostra trasmissione un pizzico d'audacia che finora gli è mancato, ci addentreremo nei meandri di sesso e potere.